È stata un'esperienza importante, importante non solo per interpretare questa parte, che nell'idea di Nanni era un'idea non solo assolutamente fisica, ma molto libertaria. L'idea era quella di lavorare a un personaggio quasi al di là del genere, su un'idea vitale e fisica di una seduzione come enorme amore per la vita, mangiarsi la vita in un modo il più libero possibile. E l'incontro con Arte Salute è un fatto importantissimo, credo che sia una delle esperienze in questa regione più importanti. Per me è stato un onore, la direzione di Nanni è una direzione molto professionale, molto forte, e tutta la compagnia è commovente, perché non ha niente di dilettantesco, ma ha una forza scenica e di intenzione importantissima, quindi per me è un onore. È stato liberatorio anche come donna interpretare un uomo? È stato strano, più che liberatorio è stato come provare a immaginare che cosa si prova dall'altra parte. Sicuramente, al di là che non c'è niente, no, di un'idea me too, però c'è anche la possibilità che la seduzione non appartenga all'uomo, ma che sia un fatto creaturale, cioè il fatto di voler tantissimo dalla vita, godere di tutto, essere quasi un pensiero anarchico, cioè senza legge, è qualcosa che secondo me è importante che possa essere vissuto anche da una donna. Certo, se questo personaggio fosse un Otello, cioè fosse comunque uno stupratore, un violento, credo che per me in questo momento, che sono anche proprio una donna che dirige una compagnia e che è un tema molto importante, no? Questo, non so se ce l'avrei fatta. Invece questo Don Giovanni è semplicemente una creatura libera, e allora che lo interpreti una donna forse ha una sua ragione. Esatto, è quello che intendevo, cioè poter godere appieno di quella vitalità che ancora un po' nella nostra società invece non è concessa così alla pari. Invece deve esserlo. Per ora sono a teatro. Ma stiamo facendo un bel lavoro per... Sì, sì.